later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la produzione non accenna a diminuire, Cappa e Drago sognano di sguazzare al mare. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Le senti, K? Le onde del mare. Soffro di allucinazioni sonore, mi sa. Perché... No, Drago, sono onde, però onde di guano. Ah, maledetti piccioni, non gli bastava stare nelle piazze di tutto il mondo. No, anche qua dovevano arrivare. E con che impeto? Impeto. A proposito di mare, Cappa, ti piace stare al mare? No, la sabbia mi dà fastidio. Vabbè, su quello hai ragione, la sabbia è vero, però prova andare alle Cinque Terre, lì è tutta ghiaia. Ma la ghiaia mi dà ancora più fastidio della sabbia, la ghiaia nel costume, Drago. Allora, senti, tu sei un tipo da argentario. La pineta sul mare, quella bella ombra fresca anche ad agosto, No, pini marittimi, Drago, perdono gli aghi, ti cadono le pini in testa, non è bello, no. Allora tu sei un tipo da piscina, scusa, non ti va bene niente. Ma certo, piscina. Ma certo, le spiagge affollate di turisti con le pance al sole non mi piacciono. Te piacciono? Ma a sì. Me non piacciono. Quelle sì che sono fabbriche di polli. Polli arrostiti in batteria, al sole, a cuocere. Ce l'avete la crema solare? Io non posso senza crema, Poi si il capellino, io non metto piede in spiaggia, senza la crema. Poi dopo la sera mi scendete voi e poi devo riempirmi di albume. Che mi scotto, però poi mi gira la testa anche, senza cappellino mi viene l'insolazione. Se non metto la crema mi scotto le piume e poi le zampe, perché una volta mi sono scottato le zampe sotto e dopo ti voglio vedere io, e ho dovuto rotolare fino a casa. Hai un bel dire che tra un po' sembreranno tutti polli arrostiti al sole, ma a me piacciono i miei villeggianti, i miei turisti da strapazzo. Mi sento Mosè davanti alle acque, solo che invece di dividerle io le noleggio. Mi chiamo Giuseppe e ho un bagno di 130 ombrelloni sulla riviera romagnola. La stagione sta per cominciare e io sento il mondo che torna a sgranchirsi sotto i miei piedi. Mai capita io la poesia del mare d'inverno, quel mare che specchia solo nuvole e desolazione. Il mio mare è strano, come un po' come terra da mietere, perché sboccia col sole di primavera. È bello tirare fuori le sdraio e gli ombrelloni da capannone, riattaccare la spina al frigo dei gelati, scegliere le ragazze che serviranno i tavoli nei fine settimana, perché alcuni dei miei clienti li conosco da quando erano bambini. Li ho visti imparare a camminare, a nuotare, a corteggiare, a fare i mariti e poi i padri. Ma li vedo una volta all'anno, eppure mi sembra che tutto ciò che conta sia solo qui, che la vita cade solo in estate davanti al mare. 350 giorni di attesa muta e 15 di verità. Chissà se hanno capito che sono io con l'esdraio, i gelati preincartati e il rastrello per la sabbia a traghettarli da un regno all'altro della vita. Chissà se hanno capito che, per loro, io sono davvero Mosè. Mi piace partire in macchina d'agosto. Resto in coda volentieri alla cassa del bar. Resto in coda volentieri sulla riva del mar. Resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio far le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio stare solo restare solo mai. Io voglio far le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. Allora Tarek, li vedi quei piccioni? Ecco, loro sono i nostri nemici. Sì, però non fare quella faccia da stupido, eh. Devi essere arrabbiato, impara da me. Tu non prendi neanche la bruxettina, quindi ti puoi arrabbiare senza limiti, eh. Sì, ma solo che tu non hai carattere, è inutile, sei timido, non faresti del male a nessuno. Che poi non è una cosa sbagliata, anzi, è quello che ci insegnano sempre. Però nel mondo di oggi non te lo puoi permettere. Questa è una fabbrica di polli, non è mica la città del sole di Tommaso Campanella, eh. Qui devi essere incazzato nero e devi beccare, Eh sì, ma tu becco non ce l'hai, te l'hanno piallato. Comunque tu impara a guardare male i piccioni, perché i nemici sono loro, è chiaro? Devi essere sempre incazzato e dare delle roncolate. In mancanza del becco, le roncolate puoi sempre darle, È un casino stare in equilibrio, ma una volta che impari, ecco, guarda, mettiti così. Prendi la roncola con la tua zampetta, eccolo, ecco. Aia! Ma no, fermo! Non devi prendere la roncolata a me, no? Aia! Ma no! Devi ancora entrare nella parte di quello che mena, perché sei abituato a prenderle, ecco. Adesso la prendo io la roncola, ti faccio vedere io adesso come si fa. Guarda, ti metti sulla zampetta. Ah, io mi metto sulla zampetta e... Roncola! Roncola la rub! Hai capito? Tush! Tush! E non provarci più, Hai capito? I piccioni devi roncolare! I piccioni! E non do spiegazioni! Oh, i piccioni! La fabbrica dei polli. Nelle frattaglie di quello che rimane del tempo, in parole povere, nel frattempo, in un sotterraneo dimenticato della fabbrica di polli, continua il mistero de... La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Fatemi uscire! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uscire! Signor Faraday! Signor Faraday! Tanta fatica per niente, Drago. Te l'avevo detto che prendere ammazzati piccioni non è una cosa semplice. Scappano, hanno i sensori. Vabbè, ma dai, l'importante era provarci. Un po' li abbiamo spaventati, no? Ma che spaventati, no. Si spostano di un metro, poi ritornano dove erano. Sì, è vero, bastardi. Secondo me non gli aumenta nemmeno un po' il battito cardiaco. Vabbè, ma mica cercavamo di farli morire di infarto. Quale altra idea brillante proponi per la lotta al piccione? Per favore, non lo so, un lanciafiamme? Quando è richiesto un fuoco di saturazione e non importa invece che il tiro sia selettivo, il lanciafiamme diventa l'arma perfetta. Perfetta. Il lanciafiamme è un'arma portatile o fissa che proietta in avanti napalm, un liquido ad alta viscosità che brucia anche sott'acqua e rimane incollato al bersaglio. Bersaglio. Ovviamente non è possibile impiegare il lanciafiamme in interni, a meno di non trovarsi fuori dall'edificio. Che non è interni, perché è fuori. Avevo detto fuori dell'edificio. Avevi detto anche interni. Che cosa succederà adesso? Esisterà un'assicurazione che copra anche l'uso improprio di napalm? Sì, ma non copre le zone del Vietnam. Sintonizzatevi fiduciosi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo bellicoso allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar Lumen.